24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, eccoci in diretta fino alle 9. Chiudiamo questa settimana di 24 mattino e anche noi, cari ascoltatori, parliamo del tema nel nostro sondaggio che è davvero ormai esonda dai giornali, vale a dire la vicenda che coinvolge questa marocchina Ruby e delle possibili feste a casa del presidente del Consiglio Berlusconi. Berlusconi ha definito tutto questo spazzatura mediatica. Siete d'accordo? La pensate anche voi così? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8:30 ed ora andiamo a scoprire cosa ci offrono i giornali in edicola. Manutencoop Facility Management, la manutenzione per i tuoi ambienti, vi presenta In Primo Piano. Venerdì 29 ottobre, cito subito l'apertura del Sole 24 Ore, due aliquote per le banche e Draghi che dice disoccupati all'11%, mentre Brunetta taglio di 300.000 statali. Questa è l'apertura sui temi economici e finanziari del giorno, ma poi tutti i giornali aprono su che cosa? La bufera delle feste di Arcore per il Corriere. Ruby, io aiuto chi ha bisogno, questa è la frase che Repubblica mette in prima pagina di Berlusconi. Libero, ci risiamo con la gnocca. Il Giornale, 8 procure a caccia di Berlusconi. La Stampa, nuova bufera sul Premier. Il Fatto Quotidiano, il governo del bunga bunga, Berlusconi confessa un reato. Beh, bunga bunga poi, come anticipato ieri, lo trovate davvero in tutte le salse, ovunque. Ma vedremo più avanti, dopo la pubblicità del meteo delle 7:30, insomma l'ampia pagina dedicata a questo. Io vorrei aprire con due consuete segnalazioni. La prima è sempre il caso di Avetrana e ricordo che alle 8:20 sarà protagonista della nostra intervista il sindaco di Avetrana. L'ultimo orrore lo scopriamo sul Corriere della Sera, pagina 25, Fabrizio Caccia. Vuol sapere chi c'è? 100 euro. Ormai è un gran bazar sotto casa Misseri. Benvenuti al gran bazar Misseri. Tutti possono entrare, guardare, scegliere con cura, ma si sappia che ogni cosa ha un prezzo. Vi interessa la relazione degli psicologi del carcere dopo la prima visita fatta a zio Michè? Non preoccupatevi, c'è un tizio appostato lì fuori il penitenziario che chiede almeno 10.000 euro. C'è l'avvocato che dice: io lavoro, sono un professionista, se perdo del tempo in uno studio televisivo è giusto che venga retribuito. Questo Dixit Daniele Galoppa, l'avvocato del presunto omicida, e così via. Ormai l'infotainment è così, si parla di 4.000 euro offerti alla famiglia Scazzi per avere un filmato del viaggio a Roma di Sara e Sabrina, 10.000 euro per mettere le mani sui diari della ragazza. Il procuratore Sebastio dice: non ci voglio neppure credere. Io temo che ci debba credere, commento mio. Vuol sapere chi c'è? 100 euro, gran bazar sotto casa Misseri. La seconda segnalazione ci porta da tutt'altra parte nel mondo, pagina 23 della Stampa. Domenico Quirico racconta la storia dell'eroe di Hotel Ruanda, il film molto bello, accusato di terrorismo. C'è un uomo, Paul Rusesabagina, per cui il genocidio ruandese, questa africana traversata del male, sembra destinato a non finire mai. 16 anni sono passati da quei 100 giorni di follia sanguinaria, 800.000 morti. 16 anniversari sono stati celebrati, alcuni colpevoli condannati, altri braccati nel mondo, burattinai o semplici gregari del macete. Eroe e assassino che sia, Paul Rusesabagina non riuscirà mai a togliersi di dosso quelle gocce di sangue, quel puzzo di morte. È la sua gloria e la sua espiazione. Diciamolo chiaramente, noi vorremmo che restasse lo Schindler africano, un semplice impiegato della Sabena, incaricato di gestire un albergo che con un umile arsenale di astuzie, bugie, santa corruzione salvò 1200 rifugiati tuzzi, i nemici dalla lama degli squadroni della morte. Ma c'è chi la racconta in modo diverso, chi lo copre di insulti, di imprecazioni, giura che è un impostore, complice degli assassini, che si faceva pagare oscenamente la sua pietà, che finanziava i lanzichenecchi del genocidio, ora diventati ribelli e banditi. Da anni si lavora a questo ritratto capovolto, raccogliendo implacabili testimonianze di superstiti, di dipendenti dell'albergo, secondo i quali questo samaritano senza paura chiedeva in realtà $800 a persona per azionare la carità. per di più inutile, perché la salvezza dei rifugiati dipese dalla presenza dei funzionari dell'ONU e di stranieri nell'albergo. Nel frattempo, Ruse Zabaghina ha trovato rifugio negli USA e è diventato uno dei più implacabili oppositori del padrone del Ruanda, il presidente Paul Kagame. Insomma, Domenico Quirico racconta la storia, sempre più controversa a questo punto, di Paul Ruse Zabaghina, l'eroe di immortalato nel film Hotel Rwanda, definito uno Schindler, che riuscì a salvare 1200 Tutsi dal massacro, ma che per il governo del Ruanda è invece un impostore, e ora stanno raccogliendo sempre più testimonianze a dire che tutto questo è stato un'invenzione, quasi a dire così, di un film hollywoodiano. Ve lo segnalo, pagina 23 della Stampa, ci fermiamo, pubblicità e meteo e poi ripartiamo. Bunga Bunga che dovunque sui giornali c'è. In primo piano. E allora è difficile districarsi davvero tra le paginate che trovate sulla vicenda, la nuova vicenda, il nuovo scandalo che sta coinvolgendo Silvio Berlusconi. Bunga Bunga declinato in tutte le salse sui giornali. Io forse la cosa più seria di tutto questo è la questione della telefonata. Dal Sole 24 Ore, caso Ruby, spunta anche un video e bufera sulla telefonata a Palazzo Chigi. Quindi scrivono Marco Ludovico e Angelo Mincuzzi che ci sarebbe un video anche di una di queste feste ad Arcore, fatto da coi telefonini, da alcune persone presenti, fatte proprio dalle ragazze che partecipavano, ma soprattutto la bufera è sulla telefonata. Quella telefonata da cui è nato tutto, quando Ruby fu fermata per un furto, accusata di furto, portata alla questura di Milano, e arrivò questa telefonata di cui raccontava ieri Repubblica, partita da Palazzo Chigi per dire lasciatela, è la nipote di Mubarak. Anche il Corriere infatti mette questo in evidenza: Berlusconi chiamò la polizia e la minorenne fu lasciata libera, questo a pagina 9. E tra l'altro Marco Galluzzo invece a pagina 5 racconta: non nega nulla, non nega le feste, non nega di avere abusato un tantino del suo potere per aiutare una minorenne, per farla rilasciare dai poliziotti, non nega i suoi difetti, i suoi vizi, le sue amicizie. Questo è Berlusconi: sono fatto così, ma ho la coscienza a posto, dice agli uomini di Bertolaso. La domanda che si pone il Corriere è stato lui stesso a fare quella telefonata in questura raccontando una bugia sui natali della giovane marocchina che frequentava i saloni e la piscina coperta di Arcore? Forse sì, almeno così sospettano i suoi ministri, ma poco importa. Berlusconi ad Acerra sorride, in conferenza stampa è disinvolto, dice che sì, ha aiutato lui la ragazza, perché sono una persona di cuore e mi muovo sempre per aiutare chi ha bisogno d'aiuto, ma sono qui per parlare di spazzatura vera, lascio a voi la spazzatura mediatica. Sulla Stampa, pagina 3, in realtà il questore Indolfi, questore Vincenzo Indolfi di Milano, che ora è diventato prefetto peraltro, all'epoca dei fatti da questore di Milano, conferma in una breve conversazione con Paolo Colonnello: non nega, la sera del 27 maggio scorso al suo capo di gabinetto Pietro Ostuni arrivò una telefonata davvero singolare nonché pesante. Dalla presidenza del Consiglio chiedevano espressamente di rilasciare la nipote di Mubarak, definita Rashida R, appena 17enne. E il questore ricorda: beh, una cosa tipo, è vero che avete fermato questa persona? Fate gli accertamenti e poi vedete cosa fare. Ma lui dice, non è che chiedevano proprio di rilasciarla, più che altro si raccomandavano, visto che era minorenne, di fare quello che dovevano fare, ma gestire la cosa nel modo più corretto possibile. Ma le dissero che era, cioè dissero al funzionario Pietro Ostuni che era la nipote di Mubarak? Indolfi tentenna un attimo, poi conferma: sì, se non sbaglio dicevano che era una sua parente, sì, mi sembra la nipote. Poi dice: comunque abbiamo, certo la telefonata era pesante, la presidenza del Consiglio è la presidenza del Consiglio, ma abbiamo rispettato tutti i crismi delle regole della procedura, anzi è rimasta qui anche più del dovuto per fare tutti gli accertamenti. Vabbè, questa è la questione della telefonata. E poi ovviamente trovate, come detto, il Bunga Bunga in tutte le salse. Iena, spazzatura. Ieri a Napoli si è tenuta una conferenza stampa del Bunga del Consiglio. Oppure addirittura Massimo Gramellini, il suo consueto buongiorno di Massimo Gramellini oggi si intitola Bunga Giorno. Vabbè, il Fatto mette appunto il com'è il titolo del Fatto di prima pagina. Me lo sono perso, ebbene sì, comunque c'era il Bunga Bunga, ve lo assicuro, anche lì, anche il giornale Bunga Bunga Basta, eccolo qui il Fatto, il governo del Bunga Bunga, e Berlusconi confessa un reato, è quello della telefonata. Poi ci sono le versioni di Ruby. Ho sia la stampa con Paolo Colonnello, dice l'abbiamo raggiunta via chat e quindi abbiamo parlato, e un po' smentisce tutto, dice sono stata una sola volta ad Arcore, poi non mi ha più voluta, pensava fossi minorenne, quando gli ho detto che aveva 24 anni non mi ha più voluta e non è mai successo nessuna relazione sessuale. Oppure sul Fatto, a pagina 4, Ferruccio Sansa, Berlusconi mi ha sgridato. Dice il Fatto, l'abbiamo sentita due volte, al mattino dava delle versioni, alla sera un'altra versione. Dice sono stata una volta con non è vero che sono stata portata da Fede, non è stato Lele Mora, neanche Emilio Fede, è una mia ragazza, una mia amica che mi ha portato lì, ma non voglio fare il nome. Chi era presente all'incontro ad Arcole? Soltanto noi tre, Silvio, la mia amica ed io. Parlano di 130.000 euro di regali, tutte bugie. Silvio mi ha dato solo 7.000 euro e una collana di Damiani. Perché è un regalo prezioso, non mi ha chiesto niente in cambio, lo ha fatto solo per aiutarmi. Sono stata ad Arcore una sola volta in vita mia. Non ha mai più risentito Berlusconi? No, l'ho sentito diverse altre volte. E infatti il Fatto dice, ma si rende conto che tutte queste dichiarazioni smentiscono quanto lei avrebbe detto finora nei verbali ai magistrati? Ne esce un ritratto di Berlusconi simile al buon samaritano. Questo è successo, dice Ruby. Ha sentito più Berlusconi dopo quella sera? No, mai. Gli voglio molto bene, è così tenero, però ho cacciato via la scheda telefonica. Chi sono io veramente? Una ragazza che ha fame incredibile di vivere, ma per il mio futuro sogno di ottenere la cittadinanza italiana. Mi hanno offerto soldi anche da Matrix per andare in TV. Ma Matrix è un programma di Berlusconi, di Canale 5, la TV di Berlusconi. Non cerchi di farmi parlare male di lui. Gli voglio bene e gli devo molto. Condito ovviamente tutti i giornali dalle foto di Ruby, davvero da profili Facebook, da web, e sono tutte foto insomma in situazioni o feste o locali. Ormai a cosa credere? Non si sa, è partita questa cosa per cui ognuno ha la sua verità. Libero intervista Katia Pasquino, ex amica di Ruby, a pagina 7, vi dico io chi è una ladra e una bugiarda. Ormai ci sono le verità, le controverità, la foto anche di Katia Pasquino messa a pagina 7, che certo insomma non passa inosservata anche lei. L'opposizione che dice Berlusconi ora lasci, e Bersani chiede con pagina 6 dell'Unità, Maroni ci dica se c'è stato un abuso di potere. Insomma, io ho contato almeno, ogni quotidiano gli dedica 4, 5, 6 pagine, quindi insomma per 20 quotidiani in rassegna stampa ci sono almeno un 100 pagine oggi dei giornali dedicata a questo. Ci sono poi retroscena, Libero dice di Salvatore Dama, un Berlusconi furente, ne verrà una al giorno, non è giornata, bastava leggere i giornali, ha detto ai suoi colleghi di governo, sono una persona di cuore, appunto, e poi preparatevi, ogni giorno ne arriverà una, anche più di una, ci attaccano da più fronti, siamo accerchiati, mettiamoci l'elmetto. Questo dà spunto anche per il titolo di giornale di prima pagina, 8 procure a caccia di Berlusconi, da nord a sud i magistrati braccano il premier con ogni tipo di motivazione, mafia, evasione fiscale, tangenti, appalti, prostituzione minorile, una persecuzione per farlo cadere. Comunque la pensiate, noi ne parleremo alle 8:30. Il tema del nostro sondaggio è, secondo voi, come l'ha definita il premier, spazzatura mediatica? Siete d'accordo? Dovete votare su radio24.it, ci trovate nell'home page, bianco o nero. Per quel che riguarda i giornali, dovunque, qualunque comprerete, troverete davvero paginate, e troverete meno pagine invece sulle cose più concrete della politica. Per esempio Donatella Stasio racconta a che punto è il nodo della giustizia, la trattativa sul lodo Alfano tra i Finiani soprattutto, che chiedono che si usi una volta sola, e Vizzini, il presidente della commissione che abbiamo avuto nostro ospite un paio di giorni fa, che dice a questo punto bisogna rinviarlo alla prossima legislatura, perché altrimenti ora che entrerebbe in vigore si userebbe per uno scorcio di un anno di legislatura, e prorogare invece subito il legittimo impedimento che scadrebbe a ottobre 2011, quindi per arrivare a coprire fino a questa legislatura, in modo da far partire il lodo Alfano dalla prossima volta, così se si usa una volta solo che valga per 5 anni. Future Libertà, il lodo si usi una volta sola. Questa pare, insomma, la linea del Rubicone che Fini e i Finiani non vogliono varcare. Come l'altra notizia del giorno importante, l'annuncio che ha dato Berlusconi, staremo a vedere. Napoli sarà pulita in 3 giorni e Mariano Maugeri, che da Napoli racconta quella che è l'emergenza rifiuti, allarme dei conti della Corte dei Conti, da sprechi e inefficienze 2 miliardi di debiti, racconta Mariano Maugeri, insomma 3 giorni e i problemi saranno risolti per Berlusconi per questa emergenza. Venendo ai temi economici, sicuramente la notizia più importante che viene messa in risalto dai vari quotidiani è quella dell'annuncio del ministro Renato Brunetta, che in un convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha detto che da entro il 2013 300.000 persone in meno ci saranno impiegate nella pubblica amministrazione. Questo come, racconta Davide Colombo a pagina 4, nel decreto di fine anno ci sarà una norma che incentiva la mobilità del personale nella pubblica amministrazione. La mobilità dei dipendenti è già regolata da un decreto legislativo, ma funziona solo in piccola parte, perché quando l'amministrazione deve effettuare un bando per nuove assunzioni deve verificare preliminarmente la disponibilità di personale presso altri enti che hanno effettuato riordini o razionalizzazioni, oppure puntare sulla mobilità volontaria. Ecco, è questo aggettivo, volontaria, che Brunetta vuole cambiare. La mobilità, ha detto Brunetta, non può più essere solo volontaria, perché le esigenze della pubblica amministrazione nel suo complesso deve avere la prevalenza sulle esigenze del lavoratore. E dunque con questa novità che si profila, Brunetta vuole 300.000 annunci, ci saranno 300.000 addetti in meno entro il 2013. L'opposizione l'accusa, dice: ma chi si crede di essere Cameron? Qualcuno dice prende la cura Fillon in Francia. Sta di fatto che questa è l'annuncio fatto da Brunetta, che diamo prima del traffico. In primo piano. La priorità è il lavoro, questo ha detto Mario Draghi, il governatore di Banca Italia, ieri alla giornata del risparmio, e Rossella Bocciarelli ne parla a pagina 2 del Sole 24 Ore. La condizione del mercato del lavoro è il tema centrale. Oggi i consumi ristagnano perché i redditi reali delle famiglie non progrediscono, vi è diffusa incertezza sul futuro. Questo è quello che ha detto il governatore Mario Draghi, insomma, dicendo che dunque la priorità per lui è il lavoro. Tra l'altro questo mi dà spunto per segnalarvi che da oggi in edicola, con il Sole 24 Ore, il supplemento 24, la parola chiave di questo mese, di tutto il volume 24, è proprio lavoro, declinato in tutte le salse ovviamente. Tra l'altro vi voglio segnalare un articolo molto interessante nel lavoro, c'entra sempre più il web, e per esempio sono molte, sempre di più le persone che mandano il loro curriculum alle aziende, corredato anche da un video, in genere un 30 secondi, 40 secondi, nel quale si presentano. Caccia all'impiego, Chuck si assume, questo è il titolo del servizio, ma comunque è molto interessante il lavoro declinato in tutte le salse. Ovviamente per esempio negli Stati Uniti si scopre che c'è una legge che permette il lavoro minorile, quindi braccianti a 12 anni, racconta Luciana Grosso dagli Stati Uniti, ma poi tanti altri articoli, insomma tutti declinati sulla parola lavoro, li trovate in 24, in allegato al Sole 24 Ore da oggi. La RAI, come sapete, è sempre un po' nel centro del mirino, nella bufera delle polemiche. Oggi segnalo una intervista al direttore generale Masi, che parla a Libero. Chi mi attacca in TV in privato poi mi si raccomanda. Chi è che mi rompe di più le scatole? Ma su via. Inizia così la conversazione, l'intervista di Enrico Paoli. Si ferma per un attimo, Masi dialoga con i collaboratori con gli sguardi, nonostante gli occhiali fumé, e poi dice: ma sì, diciamolo, sono in tanti, di tutti i partiti, destra, centro, sinistra, chiamano per chiedermi qualcosa, finendo la telefonata con la stessa frase: oh direttore, che resti tra noi, e io rispetto la regola del silenzio. Insomma, un Masi che dice: io mi sento tranquillo, nelle battaglie sono i momenti in cui cerco di essere più lucido, non ho nostalgia di Palazzo Chigi, sono in Rai e ci sto bene. Credo che il clima qui risenta molto del clima complessivo del paese. E poi parla delle varie trasmissioni, per esempio di Santoro. Se la invitasse lei andrebbe ad anno zero? Dovrei valutare bene. Sul piano personale il rapporto è corretto, ma le regole valgono per tutti, non c'è qualcuno più uguale degli altri. E ancora, perché chi tocca Santoro muore? Questa è la domanda di Enrico Paoli. Guardi, dopo 16 mesi a Viale Mazzini mi trovo a condividere una frase attribuita all'ex presidente Amato, secondo il quale un pezzo della sinistra, un bel pezzo, si ritiene proprietaria della RAI e qualunque intervento, anche nei limiti della legalità più ortodossa, viene considerato da certuni una violazione di questa proprietà. È una considerazione molto amara per me, che ho lavorato a Palazzo Chigi con presidenti del Consiglio di tutte le estrazioni politiche. Su Fazio e Saviano, che andranno in onda, certo, per me è tutto a posto, come peraltro è sempre stato. Sarò però curioso e attento a vedere come saranno in grado di costruire una trasmissione degna del servizio pubblico. E poi la Gabanelli, che ieri era nostra ospite, intende davvero togliere al Report la copertura legale? È una leggenda metropolitana, come quella dei consiglieri di amministrazione espressi dalla maggioranza che sarebbero contro di me. Assurdo. Insomma, quindi Masi risponde anche ad alcune delle domande che ponevamo ieri. Per la cronaca vi segnalo, trovate sui giornali, ricordate la vicenda della clinica Santa Rita a Milano, dove il chirurgo Brega Massone è accusato di avere fatto operazioni inutili. Ebbene, dopo 84 ore di consiglio, 73 udienze, 22 mesi di dibattimento, è stato condannato in primo grado a 15 anni e mezzo di carcere dalla quarta sezione penale milanese. Appunto, lui è l'ex primario del reparto di cardiochirurgia, 10 anni invece al suo vice Pietro Presicci, 6 anni e 9 mesi all'altro aiuto Marco Pansera. Erano accusati di aver effettuato 83 interventi chirurgici inutili che provocarono lesioni in alcuni casi permanenti ad altrettanti pazienti. Già molti dei pazienti dicono una pena troppo lieve per i danni che ha causato, in ogni caso 15 anni e mezzo all'ex primario Brega Massone. Io voglio stare su Repubblica per raccontare una lettera che trovate a pagina 15, in realtà è una lettera che è in un libro in uscita, riguarda sempre la vicenda delle stragi di mafia e la strage Borsellino in primo piano del 92. Il falso pentito scrive al Borsellino: mentii sull'attentato, mi hanno costretto. È una lettera che Vincenzo Scarantino, un pentito, che è il primo che si autoaccusò di avere fatto l'attentato, di avere imbottito la macchina di Tritolo, ma che poi disse, insomma, dopo le rivelazioni di Gaspare Spatuzza, che ha detto guardate che sono stato io invece, Scarantino ha detto è vero, mi hanno costretto invece a dire che ero stato io, ma non sono stato io. Ora Vincenzo Scarantino cosa fa? Ha preso carta e penna e ha scritto ad Agnese Borsellino, la vedova di Paolo Borsellino, chiedendo perdono, svelando una sconvolgente verità. Io non sapevo nulla sulla strage del giudice, non avevo motivo di depistare le indagini, ma hanno vinto loro. Loro tra virgolette e maiuscolo. Le indagini depistate. Oggi sono un uomo solo, abbandonato da tutti e dalla famiglia. Scrive ad Agnese Borsellino: cortese signora Agnese e figli, signora Rita e figli, signor Salvatore e figli, cioè la sorella e il fratello di Paolo Borsellino. Sono Scarantino Vincenzo che le scrive, mi creda, non è una cosa facile per me, essendo con uno stato d'animo difficilissimo. Inizia così questa lettera, nella quale parla di enti, così definisce magistrati, poliziotti che lo interrogavano, che gli fecero credere di aver contratto l'AIDS, che gli dissero ti togliamo dalla moglie, dai figli, e che insomma lo obbligarono, secondo lui, a confessare una realtà di essere stato l'esecutore materiale di aver imbottito la macchina in Tritolo. In realtà lui non l'aveva fatta. Agnese Borsellino l'ha risposto dicendo ti perdono, ma ora di tutto, perché poi insomma lui dice questi enti loro, alimentando questo sospetto che regge da 18 anni ormai sul fatto che ci siano degli enti appunto dietro queste stragi di mafia, ma in realtà non dice chi siano. Voglio concludere con una segnalazione. Quale? Beh, insomma, anche sulla Gazzetta dello Sport, indovinate cosa trionfa nel rompipallone di Igiene agli occhi? Ancora veleni alla vigilia di Milan-Juve. Ieri a casa dell'arbitro si è presentata una ballerina di Bunga Bunga. Votate il sondaggio e andiamo al GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ospitiamo oggi il sindaco di Avetrana, Mario De Marco. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. E allora a Vetrana, insomma, identificata con ormai da 2 mesi con l'omicidio di Sara Scazzi, intanto le dà fastidio questo sindaco? Fastidio no, perché non ci sono elementi da cui emerge il fatto magari che l'episodio abbia avuto luogo in un territorio specifico, cioè l'epilogo della vicenda lascia un po' intravedere la possibilità che questo episodio, questo delitto così efferato potrebbe essere consumato in qualsiasi altra parte d'Italia, quindi non è un delitto legato all'appartenenza a una cittadina particolare. Certo, è una casualità. Senta, oggi leggiamo sul Corriere, vuol sapere chi c'è? 100 euro, il gran bazar a casa Misseri, cioè persone che offrono notizie, chi verbali degli psicologi ai giornalisti per 7.000 euro, 4.000 euro, chi le foto del garage dove è stata uccisa la povera Sara, questo le dà fastidio? È un aspetto sicuramente censurabile, un po' increscioso, però sicuramente nasce anche da chi non conosce a fondo le metodiche o le dinamiche televisive, per cui magari in un immaginario collettivo di paese si è sviluppato un concetto in molti che le televisioni siano una mano dal cielo e quindi che possono esserci la possibilità di guadagno, ma sono fatti singoli legati a soggettività singole. Però questo perché si sparge poi i nostri paesi, le voci poi rimbalzano velocissime e si parla di cachet che tutti abbiamo preso, ma in realtà poi è tutta una, anche quello un gossip mediatico gonfiato, poi la sostanza è poco. Però voglio dire, anche il garante Calabrò, il garante per le comunicazioni, ha detto basta questo assalto mediatico. Insomma, so che anche lei ha fatto, non è un'ordinanza, ma un invito, che cosa, alla polizia municipale di notificare il divieto di sosta ai pullman delle TV che sostano da 2 mesi praticamente nella via. No, noi abbiamo fatto tramite la polizia municipale un invito a tutte quelle emittenti televisive, i fly cosiddetti, cioè che sostano da 2 mesi vicino alle case prima degli scazzi e poi dei Misseri, di coniugare, cioè di trovare una soluzione che meglio coniughi il diritto di cronaca con il diritto anche dei vicini o delle persone di vivere normalmente. Però li abbiamo spostati in un'area adiacente molto più spaziosa e più larga. E così non abbiamo sempre quello sfondo ormai che... Cioè non è che li volete cacciare? Cioè non, no, lei mi sembra di capire che, non le di, che quando andranno via, perché si spegneranno prima o poi i riflettori, insomma, questo mi sembra di dire che mi sembra di poter capire che le darà un po' fastidio anche, le dispiacerà. No, le dispiacerà. Non mi dispiacerà perché comunque noi pensavamo a cadersi prima. Sicuramente ormai dopo 2 mesi si è creato quasi un rapporto di amicizia sia tra i giornalisti che la cittadinanza tutta. Cioè ormai diciamo, ci sono dei giornalisti che sono qua o degli operatori che da ormai 2 mesi vivono da Vetrana, quindi si crea naturalmente una simbiosi. Poi, devo dire, svolgono il loro lavoro. A me non dispiacerà quando questa finestra sarà chiusa, mi auguro che avvenga quanto prima, anche perché non parliamo di un evento lieto, ma di un tragico evento. È chiaro. Per cui chiudere questa finestra, soprattutto con la sovraesposizione mediatica che c'è stata, credo che sia quasi opportuno. Non solo tra quelle che si indignano per la presenza dei giornalisti. Ecco, appunto, le volevo chiedere questo, perché molti hanno detto basta, non parliamone più, cioè a me non parliamone più sotto l'aspetto 24 ore su 24 riflettori accesi con interviste. Lei invece non si indigna per la presenza? Guardi, io a proposito di questo ci tengo a dire che è da circa 7, 8, 10 giorni forse che non seguo più la televisione, quindi una persona qualunque, se è indignata, se è scandalizzata, può anche usare il cosiddetto telecomando e guardare altro. Le televisioni offrono tantissimo adesso, con Sky, con il digitale terrestre, con tutto questo, sono una marea di canali, per cui sicuramente aprire la televisione e sentire il giornale Vetrana per un delitto così efferato non fa piacere a noi a vetranese, perché si rischia effettivamente quello che le dicevo all'inizio, cioè sì, una sorta di identificazione sbagliata con, sì, il paese del crimine, ho detto, il crimine, no, è chiaro. Senta, lei tra l'altro sindaco e avvocato? Sì. Penalista o civilista? Tutte e due. È penalista. E avrebbe assunto volentieri la difesa degli imputati? Devo dire la verità, in un paese così piccolo, quello di Misseri, sarebbe stato un po' difficile assumerlo, perché poi anche soprattutto in primo momento ha assunto un po' la figura dell'orco, quindi la parte del cattivo non piace farlo a nessuno. No, quello di Misseri probabilmente... Beh, ho capito, tutti hanno diritto a un avvocato, insomma, non lo devo insegnare io a lei. Ce ne sono tanti. Cioè lei non avrebbe assunto? No, non avrei accettato. Non demotiva, peraltro, perché... I sentimenti che si sono emersi nella immediatezza del trovamento di Sara sono stati molto forti, cioè, c'è grande rabbia e grande indignazione, per cui in quel momento sarebbe stato difficile da parte di chi fosse della zona o di Avetana assumere un ruolo di questo tipo. Sindaco, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata, ovviamente. Mario De Marco è il sindaco di Avetrana, del Popolo della Libertà, non l'ho detto, avvocato, civilista e penalista. Insomma, i riflettori su Avetrana si spegneranno prima o poi. Non si spegneranno per giorni, potete scommetterci. Invece i riflettori che si sono aperti sulla vicenda di Ruby e le presunte feste a casa del premier di Silvio Berlusconi, ne parliamo nel nostro sondaggio. Il tema, la domanda che poniamo è questa: è spazzatura mediatica come l'ha definita Berlusconi oppure no? Siete d'accordo con il fatto della definizione spazzatura mediatica? Votate su radio24.it oppure siamo qui 800 24 00 24, tra poco 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua, 800 24 00 24, se volete intervenire, i vostri sms al 349 238 6666. Di che parliamo nel nostro sondaggio? Beh, parliamo della nuova vicenda che è davvero esplosa, che riguarda la minorenne Ruby e il presidente del Consiglio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Dunque, intanto le voglio dire che sono una persona di cuore e mi muovo sempre per aiutare chi ha bisogno di aiuto. La seconda cosa è che io sono qui per parlare della spazzatura vera e quindi della spazzatura mediatica lascio a voi di occuparvene. Spazzatura mediatica l'ha definita Berlusconi, che ieri si occupava di spazzatura vera, era ad Acerra. È davvero, la pensate così anche voi? Siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio. Per ora il 60% dice di no, il 40% sì. Ne vogliamo parlare con Norma Rangeri, direttore del Manifesto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E voglio salutare anche Mario Secchi, direttore del Tempo. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Norma Rangeri, allora, è spazzatura. Oggi sul Manifesto leggo il fondo di Micaela Bongi, che dice: se fosse confermata anche solo una piccola parte di quello che sta venendo fuori della nuova inchiesta sui festini presidenziali e dintorni, si precipita la nostra vita democratica nella parodia di una commedia trash. È davvero spazzatura oppure lei come la pensa? Penso che il paese sembra diventato una, diciamo, retroscena dei film di Vanzina da una parte, e dall'altra il lato grottesco, diciamo, della vicenda non ne deve oscurare il lato invece drammatico, perché tutto questo non avviene nel paese di Bengodi ma avviene in un'Italia disastrata dalla crisi economica, con 800.000 persone in cassa integrazione. Quindi vivere in un paese che sta molto male e che ha una classe politica, anzi il massimo esponente della classe politica, che si comporta in questo modo nella sua vita privata, che poi tanto privata non è perché si tratta del Presidente del Consiglio, è una cosa che, insomma, ci fa stare male, diciamo. Ecco, questo è il termine: vita privata o vita privata non è. Su questo vorrei anche il primo parere di Mario Secchi, direttore del Tempo. È spazzatura mediatica oppure... Allora, intanto dobbiamo dire una cosa: il costume italiano è cambiato, nel senso che nel 2008, quando Repubblica fa il suo lavoro, lo premetto subito, quindi pubblica notizie e decide quali sono degne di essere pubblicate o no in piena autonomia, ma nel 2008, quando Repubblica comincia a occuparsi delle lenzuola, diciamo così, del letto e dello scendiletto del capo del governo, rompe un tabù, e cioè si occupa di quella che doveva essere la vita privata in tutti i suoi aspetti, no? È una cesura, un taglio netto rispetto al passato. Sì. Un taglio netto verso dove? Verso un sistema che, può piacere o meno, c'è già in altri paesi, cioè la stampa, la cosiddetta stampa anglosassone, che tutti citano e nessuno legge, che scrive il peggio del peggio del peggio di tutti, in maniera assolutamente cattiva. Quindi noi entriamo in questa dimensione, improvvisamente. Da quel momento in poi tutto è possibile, sì. Cioè, è possibile anche che tutti gli altri giornali facciano la medesima cosa, nei confronti di tutti. E ma questa è cosa è spazzatura, quindi da qui vabbè, no. È spazzatura, allora, secondo lei? Attenzione, io non dico, non do un giudizio sulla qualità della cosa. Io dico che in un sistema che accetta questo tipo di logica, cioè per cui nella battaglia politico-mediatica entra anche questo. Allora dice tutti contro tutti. Allora è chiaro, c'è un grande stratega inglese, era il consigliere di Tony Blair per la politica estera, che diceva: noi applichiamo le regole del diritto, si riferiva alla politica estera, ma quando entro nella giungla applico la legge della giungla. Io però vorrei che ci si focalizzasse, secondo me, e lo fanno appunto i giornali oggi, sulla cosa, cioè non vorrei che dietro il, non so, questo suono matopeico che è diventato già il mantra, no? Il bunga bunga, le foto, il gossip, sicuramente Emilio Fede l'ha portata lui o non l'ha portata lui smentisce eccetera. In realtà vorrei però da Norma Langeri e da Mario Secchi una smentita, una conferma su questo. Secondo me la cosa più seria di tutto questo è la famosa chiamata alla polizia, cioè quando questa ragazza viene fermata, portata in questura, e oggi il questore di allora alla stampa conferma, effettivamente arrivò una chiamata da Palazzo Chigi dicendo: è la nipote di Mubarak. Non è che proprio dissero lasciatela andare via, però dice insomma, comportatevi, no, nel modo giusto, perché ecco, questa telefonata è quella che anche il Corriere dice insomma, chiamò la polizia. Norma Rangeri, questo è l'aspetto più serio? Oppure dobbiamo parlare del bunga bunga? No, parliamo anche del bunga bunga, sì, se vogliamo. Ma certo, ma questo è ovviamente l'aspetto più serio dal punto di vista proprio del comportamento di una carica politica, di un presidente del Consiglio o comunque di una presidenza del Consiglio. Anche perché questo comportamento, voglio dire, stride in modo terribile con il modo in cui lo stesso governo tratta gli immigrati. Cioè, noi siamo il paese che viene ripreso dall'Europa per come, diciamo, per i respingimenti, per come si comporta con le persone che vengono dagli altri paesi nel nostro a cercare una vita un po' più decente. E poi se c'è invece una minorenne marocchina che però è stata, diciamo, nelle grazie di Emilio Fede o di Lele Mora o di Silvio Berlusconi, allora si telefona al questore di Milano e poi l'igienista dentale la va a prendere e la porta fuori dalla questura. Ma insomma, ci rendiamo conto che c'entra l'informazione, la cesura mediatica? Io non credo che il problema sia questo, credo che sia un problema di istituzioni piegate da un potere che ha corrotto il paese fino a un punto in cui non si può più nemmeno nascondere, ormai tutto viene a galla, ma non perché ci sono giornali che hanno deciso di rovistare nella spazzatura o di fare un lavoro sul privato dei politici, perché fino a prova contraria il più grande lavoro sul privato del Presidente del Consiglio l'ha fatto sua moglie. Sì. Però che ci sia stato, su questo voglio andare alla questione della telefonata alla polizia con Mario Secchi, però che ci sia stato un imbarbarimento, nel senso un da un paio d'anni dal caso Noemi, insomma, di volere andare a visitare anche cosa c'è sotto le lenzuola del potere, questo un po' c'è negli ultimi due anni, o no? Però Secchi, l'aspetto della telefonata alla polizia, questa oggi per esempio Massimo Gramellini nel suo buongiorno, anzi che chiama bunga giorno, giusto perché così anche lui sdogana questo termine, dice: è questa la cosa più seria, cioè l'avesse fatto Obama, dopo un secondo dovrebbe dimettersi, cioè chiamare un questore o far chiamare un questore e dire attenzione, questa cosa risolviamola in questo modo. Ma dunque, intanto io nel mio fondo di stamattina ho scritto che questo aspetto è assolutamente sbagliato, è un errore istituzionale, no? Quindi se la telefonata c'è stata, come immagino, è un errore, non ci sono dubbi, è una sbavatura. In ogni caso anche l'idea di voler aiutare una persona e così via non sta in piedi, nel senso che non va bene dal punto di vista istituzionale. Però detto questo, poi la storia della ragazza e dell'inchiesta e del bunga bunga, dobbiamo essere sinceri, fa acqua da tutte le parti. Cioè la stessa Repubblica che tira fuori la storia in maniera dettagliata dice che ci sono dati oscuri, che è contraddittoria, che deve essere tutto chiaro. Ma su quello sì, ci sono già 10 verità, cioè la stessa Rubio oggi ha fatto 3 interviste importante. In cui dice questo tutto il contrario importante. Di tutto. Ormai questo non si saprà più niente qual è esatto. la verità. Allora c'è un problema serio sull'attendibilità della fonte. Mi segui? Sì. Cioè, questa è una cosa seria perché la notizia dell'inchiesta è vera, ma l'attendibilità della fonte da cui arriva quella notizia è un disastro, parliamoci chiaro. Però l'hai definito una sbavatura, cioè questa telefonata. Questa storia qua è il classico esempio di come sono abborracciate le cose in Italia. E faccio un elenco proprio rapidissimo senza voler rubare tempo. Allora, l'inchiesta, viene aperta l'inchiesta e si ha una fuga di notizie grave, ovviamente, molto grave. Perché è un'inchiesta labile, cioè a detta degli stessi cronisti che la cavalcano, giustamente, ingiustamente, questo non è un problema, non è il problema principale. Quindi già questo punto è abborracciato. Il secondo punto, c'è un errore evidente se c'è stata la telefonata alla Questura di Milano, altro esempio di abborracciamento. Poi arrivano le indagini difensive che neanche quelle sono segrete, cioè pazzesco. Sì, pure quelle diventano... Però il questore, almeno questa la conferma, il questore Indolfi oggi alla stampa dice la telefonata c'è stata. Quella è abborracciata perché è un errore istituzionale, non ci sono dubbi. Sì, su questo definita tra l'altro una sbavatura la definita, però vorrei, secondo me è una cosa, è l'aspetto più serio e istituzionalmente più grave, se si vuole, in tutta la questione del bunga bunga, che poi la stessa Rubi, oggi intervistata dal Fatto, dice, che poi intervistata due volte, a mattina dice una cosa, a sera dice bunga bunga, ma che è? Io non ho mai parlato di bunga bunga, vabbè, ma insomma. Vediamo un po' di andare alle informazioni sul traffico, poi rientriamo con qualche ascoltatore e con i nostri due ospiti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È spazzatura mediatica quello che leggiamo sui giornali. Rubi, il presidente del Consiglio, secondo voi il 58% dice di no, ci risiamo con la gnocca, titola oggi Libero, mentre il direttore del Tempo Mario Secchi, com'è il paese del bunga bunga, insomma tutti ci siamo caduti, no? Voglio sentire un rapido parere di ascoltatori, vediamo che ne pensa Giuseppe da Salerno. Buongiorno, senta, niente, io volevo solo richiamare l'attenzione su una cosa. Secondo me, indipendentemente dagli aspetti, dalle proprie idee politiche, è inutile che noi ci soffermiamo di nuovo su queste cose. Io oramai considero il Presidente, purtroppo, mio malgrado, affetto da una patologia che è quella che riguarda la sfera sessuale. Vabbè, ma tutti quanti consenso di terminare. Ma lei come fa a sapere da un medico ha visitato Berlusconi? Sono nella sanità, io so che cosa succede quando delle persone hanno questa tendenza. Un consulto telematico gli ha fatto? No, per l'amore di Dio. Cioè, voglio dire, è come chi è abituato a fumare, sa che gli fa male, glielo dicono tutti di smettere per 3-4 giorni, una settimana, poi quando ha l'occasione lo rifà di nuovo. Allora, fa male fare queste feste, se ci sono queste feste, lei dice. Vabbè, insomma, lei dice è malato, vabbè, questo è il suo parere medico, non so, da consulente. E dunque? Cioè, pur dunque, preoccupiamoci della fine del berlusconismo, perché se la Italia è in questo momento, dopo 15 anni di governo e dopo delle promesse a cui tutti avevamo creduto e speravamo che si potesse arrivare... Sì. Purtroppo siamo al bunga bunga. Al bunga bunga, grazie Alvise da Mestre. Buongiorno, dica. Le telefonavo per riguardo al fatto che lei diceva, ma è più grave la telefonata o il bunga bunga? Secondo me la telefonata, se c'è stata, come il questore. Secondo me le due cose stanno insieme, non si possono tagliare una dall'altra, perché nel momento in cui abbiamo la telefonata alla questura è perché prima c'è stato bunga bunga, diventa la sintesi per non dilungare. Sì, ma adesso poi, a parte che bunga bunga, voglio dire, la stessa Rubi ha smentito, che ha detto non c'è mai stato bunga bunga, non ho mai avuto, tra l'altro, guardi, le faccio una domanda, Alvise, lei ha letto ieri l'articolo di Repubblica? No, questo allora mi impedisce di farle una seconda domanda. Vabbè, prosegua, dica. A me non interessa tanto cosa ha fatto in concreto, il dettaglio pecoreccio. La cosa importante, secondo me, è che c'è questa minorenne che per qualunque motivo ha un contatto col presidente, magari hanno solo bevuto l'aperitivo insieme, e con questo riesce a essere legittimata di avere una e capisce un che sta dicendo in qualche modo che vede che voglio dire la telefonata, se vuole, la questione istituzionalmente, che secondo me deve far più discutere più del fatto che Berlusconi abbia invitato in casa sua una minorenne che peraltro ha detto più volte non ho mai avuto nessun tipo di approccio sessuale da parte del presidente del consiglio. Quindi, insomma. Però Norma Rangieri, torniamo su questo punto. L'accusa che molti fanno è non si riesce da parte dell'opposizione a contestare politicamente Berlusconi, e allora si va appunto a vedere cosa c'è sotto il lenzuolo, perché in altri modi non lo si riesce a contrastare. È un'accusa che regge? Ma che l'opposizione, diciamo, non sia nel massimo del suo splendore dal punto di vista della proposta politica e davanti agli occhi degli elettori, che infatti non la premiano, ma questo non significa nulla rispetto alla strumentalità dei modi in cui si fa l'opposizione. In questo io non credo che sia una cosa, diciamo, generosa nei confronti dell'opposizione politica, perché vorrei vedere, insomma, avendo a che fare non con una maggioranza che discute, con cui si discute su elementi appunto attinenti alla cosa pubblica e alla politica, ma sì, purtroppo abbiamo un Presidente del Consiglio che ha sulle spalle dei fardelli piuttosto pesanti, e quindi anche fare l'opposizione rispetto a un personaggio come Berlusconi è molto complicato. Non a caso succede solo in Italia. Adesso io mi dispiace che, diciamo, si sorvoli su elementi costitutivi e di fondo dello scenario politico italiano, perché Berlusconi non è né Cameron né Sarkozy, è Berlusconi, cioè un uomo con dei connotati biografici e politici molto precisi, e quindi noi viviamo in un paese connotato, determinato, io dico sfigurato da questa però dall'altra parte molti si dicono, e vorrei a Mario Sei, che appunto gli italiani ormai sanno tutto di Berlusconi, appunto anche, insomma, lui non ne fa neanche mistero poi da quando è venuta fuori questa vicenda di due anni fa, insomma. Non sono un santo, ecco, non sono un santo e lo votano. Però io chiedo, Secchi, la questione politica, quando venne fuori le altre vicende, Noemi, D'Addario, due anni fa, il governo era certamente più forte e la maggioranza più coesa di quello che è oggi. Questo visto oggi, potrebbe, la domanda è secca, dovesse profilarsi una nuova campagna mediatica, Berlusconi la reggerebbe politicamente, secondo lei? Beh, questa storia, il fatto più serio è la telefonata. Tutto il resto è una nebulosa, ripeto, della quale alla fine emerge però questa telefonata. Questa è la cosa sulla quale io concentrerei, diciamo così, l'attenzione. Ed è ovviamente, se c'è stata, questore lo conferma, è quantomeno una sbavatura dal punto di vista istituzionale. Dopodiché c'era la cosa che diceva la Rangieri sull'opposizione, eccetera, ma diciamoci la verità, l'opposizione parlamentare non esiste, in quanto la sinistra si è squagliata. La vera opposizione al governo la fa un giornale chiamato Repubblica, legittimamente fa il suo lavoro, e un altro giornale che si chiama Il Fatto, più qualche corollario, diciamo così. Sì. Cosa significa questo? Significa che la politica, in quanto sistema dei partiti, viene automaticamente sostituita dai giornali d'opinione, perché è debole e non riesce a dare risposte. E quindi il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo politico, il giornalismo che ha una forte identità ed opinione si sostituisce al sistema della politica, alimenta il dibattito e fa lotta politica. Io ho 30 secondi per chiudere. Vorrei approfittare della presenza di Norma Rangieri, che è appunto il direttore del Manifesto, perché oggi sia il Manifesto, parte credo un'iniziativa da un po' di mesi, dite mancano i fondi e rischiamo, insomma, di scomparire come giornale. Oggi anche il Secolo d'Italia titola Ci vogliono cancellare. Insomma, Norma Rangieri, direttore, qual è la situazione? Perché oggi addirittura da oggi fate pagare un euro per leggere il Manifesto online? Sì, perché prima il manifesto si poteva leggere integralmente il giorno dopo, cosa che non succede negli altri giornali, purtroppo non ce lo possiamo più permettere. Ma diciamo che il grido di allarme è dato dalla stampa di opinione, dalla stampa che non ha, nel mio caso, nel caso del mio giornale, né un partito, né un editore, né tantomeno un padrino alle spalle, e la libertà di informazione in questo paese costa cara, quindi non basta fare stati di crisi, avere degli stipendi come abbiamo noi molto ridotti, ma abbiamo bisogno del sostegno dei nostri lettori, perché il mercato, diciamo così, è un po' truccato e quindi chi dice che non c'è bisogno di sostenere l'editoria dice una grande cavolata. Vabbè, insomma, chi vuole raccogliere l'appello del manifesto lo trovate. Io vi ringrazio, il direttore del manifesto Norma Rangieri, il direttore del Tempo Mario Secchi. Continuate a votare il sondaggio, per ora sempre il 58% dice no, non è immondizia. Ci fermiamo qui con Antonella Migliaccio in redazione, Filippa Oreggi in regia. Lunedì siamo regolarmente in onda, 1° novembre. La linea a Oscar Giannino.